Le 13 in punto. GR24, il sole 24 ore. Esplosioni e incendi nella centrale di Fukushima, paura in Giappone, il governo però rassicura. Borsa di Tokyo a picco, effetto domino in Europa. L'Europa si interroga sul nucleare, l'Italia va avanti. Allarme meteo sul Giappone, i venti portano radioattività sull'oceano. Ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione di Radio 24. Questa edizione, tutta la prima parte, è dedicata alla situazione in Giappone. Il bilancio delle vittime che aumenta, la paura nucleare che resta in primo piano. Accanto a me c'è Valeria De Rosa. Valeria, allora, una situazione che resta molto, molto grave. Intanto partiamo da una notizia arrivata da pochissimo. Secondo l'agenzia meteorologica giapponese, la stessa stima la possibilità che entro il 18 marzo possa prodursi una forte replica superiore a magnitudo 7 del sisma che venerdì ha colpito il nord-est del Giappone, stima questa possibilità pari al 40%. Torniamo sull'aspetto nucleare, intanto cerchiamo di riassumere in breve qual è la situazione. A Fukushima 1 oggi è avvenuta un'esplosione nel reattore numero 2 e un incendio nel reattore numero 4. Ricordiamo che nel reattore numero 1 e numero 3 si erano già verificate delle esplosioni. La buona notizia è che il guscio più interno che racchiude il reattore è rimasto integro in tutti e tre i reattori della centrale di Fukushima 1 che erano in funzione al momento del terremoto. Altra notizia positiva è che la situazione è tornata alla normalità nella vicina centrale di Fukushima 2, distante 11 chilometri dalla prima. Secondo la Francia, bisogna dire che l'incidente nucleare della centrale giapponese va considerato di livello 6 su una scala internazionale di 7. Questo è quanto ha affermato il presidente dell'autorità francese per la sicurezza nucleare. Ricordiamo che la scala appunto va da 0 a 7 e che fino a questo momento l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica lo ha considerato di rischio 4. Ricordiamo anche che l'incidente di Chernobyl era stato classificato come livello 5. Sono stati evacuati tutti gli abitanti nel raggio di 20 chilometri intorno a Fukushima 1. Si sta procedendo all'allontanamento di coloro che vivono tra i 20 e i 30 chilometri di distanza dalla centrale. Per quanto riguarda il livello di radioattività, comunque il governo ha detto che si sta abbassando, si è già abbassato, questo hanno reso noto le fonti governative giapponesi. Per capire qualcosa di più, perché noi possiamo semplicemente darvi la cronaca, siamo in contatto costante con il fisico nucleare all'ambasciata italiana a Tokyo, Alberto Mengoni, raggiunto da Cristina Carpinelli. Ci sono diverse indicazioni per quanto riguarda la situazione che al momento a Tokyo non è drammatica, nel senso che non ci sono misure di evacuazione o simili, neanche misure di prevenzione, nel senso che non ci si aspetta un effetto degli eventi che ci sono stati, inclusi anche quelli di questa mattina, non ci si aspetta un effetto di qualunque tipo qui a Tokyo. L'indicazione di protezione che è stata data dalle autorità giapponesi, cioè quella di rimanere in casa in un raggio di 30 chilometri, è quella che viene considerata sufficiente anche dalle varie autorità e incluse le varie ambasciate europee che sono qui in Giappone. Anche per noi questa sembra una misura sufficiente per far fronte alla situazione che si è creata, diciamo, fino agli eventi di questa mattina. Secondo le vostre informazioni ci sono livelli di radioattività superiori alla media anche a Tokyo? No, assolutamente no. A Tokyo no. In generale però si sta cominciando. Allora, il quadro, diciamo, un po' più in dettaglio è questo. Nella zona della centrale sono stati rivelati livelli di radiazione sicuramente elevati e sicuramente dannosi per le persone. Tant'è vero che il personale non addetto al cooling, insomma alle operazioni essenziali della centrale, è stato evacuato. Quindi sicuramente nella zona della centrale ci sono dei livelli di radiazione che sono pericolosi. però e quindi in seguito a questo c'è è stata ordinata un'evacuazione delle persone, anche dei residenti, entro un raggio di 20 km e un'indicazione a rimanere in casa per quelli che abitano in un raggio di 30 km. Oltre questo non ci si aspettano degli effetti importanti, dopodiché per precauzione ovviamente la gente può seguire delle indicazioni generali che sono quelle solide che si adottano in questi casi, però non ci si aspetta un effetto importante nella zona di Tokyo. Valeria, allora tra pochissimo ascolteremo anche le testimonianze che arrivano dal Giappone. Intanto si è aperto ovviamente un dibattito sul nucleare in tutta Europa. Stamattina dalla Germania Angela Merkel, il cancelliere tedesco, ha parlato di 7 impianti vecchi da chiudere. Ieri erano 2, oggi sono diventati 7. Dibattito ovviamente in corso anche in Italia, che sta tornando al nucleare. Allora ci colleghiamo in diretta con Roma con Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, buongiorno. Il governo italiano continua a sostenere la scelta del nucleare malgrado quanto sta succedendo in Giappone. Lo conferma il ministro del lavoro Maurizio Sacconi, per il quale non ci si può fermare davanti a rischi di eventi straordinari. Ci fermeremo anche per ponti e dighe. E per il ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo bisogna evitare allarmismi. Allora sentiamo quanto ha detto la Prestigiacomo a Mattina 5. Oggi si svolgerà una riunione, sarà il commissario per l'energia a riunire tutti i ministri per l'energia e per la sicurezza nucleare e si farà un po' un programma europeo, perché la preoccupazione in questo momento è che nel nostro paese non ci sono centrali, quindi noi siamo in questo momento quelli che partecipiamo solo per capire, per imparare, dovendo tornare al nucleare, ma in Europa ci sono delle vecchie centrali che hanno la stessa tecnologia di quelle del Giappone. Da parte dell'opposizione Pierluigi Bersani lancia la mobilitazione del Partito Democratico in vista del referendum, troppi rischi per quanto riguarda le scorie e gli incidenti. Da sempre contraria all'Italia dei Valori ha presentato il referendum, allora sentiamo Antonio Di Pietro. L'Italia dei Valori l'anno scorso, in epoca non sospetta e quindi non può essere accusata di sciacallaggio, ha raccolto le firme perché ha ritenuto e ritiene che con le moderne tecnologie non ci sia più bisogno di ricorrere al nucleare, che è troppo pericoloso e il gioco non ne vale la candela. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta. Allora Valeria, siamo alle testimonianze che arrivano dal Giappone. Sì, allora siamo alle testimonianze perché abbiamo sentito anche come il governo giapponese abbia rassicurato tutta la popolazione di Tokyo, in particolare dove il livello di radioattività è sceso ai livelli consentiti. Adesso però siamo in collegamento con l'inviato del Sole 24 Ore in Giappone, Stefano Carrera, che stamattina, anzi questo pomeriggio per il Giappone, ha assistito a una conferenza stampa di un tecnico a proposito proprio delle centrali di Fukushima. Lo saluto, benvenuto Stefano. Ciao, sì, appena finita la conferenza stampa qua al Foreign Press Club of Japan di Masashi Goto, che è un ex designer degli impianti della Toshiba, che si è convertito non tanto all'antinuclearismo in assoluto, ma appunto alla critica dei governi che tengono in funzione impianti non sufficientemente sicuri. Ecco, lui ha spiegato, andando molto in dettagli tecnici, che ora il problema non sono gli impianti nucleari, cioè i reattori numero 1 e 3 di Fukushima Daiichi, ma il 2 e il 4. Il problema è che il 2 è in mezzo all'1 e al 3, per cui se si aggravassero ulteriormente le condizioni al numero 2 potrebbero riesplodere i problemi all'1 e al 3. E quindi questo solo farvi pensare la follia di mettere 6 reattori in una stessa centrale praticamente in fila, in edifici in fila uno per uno, oltretutto sul mare in una zona sismica e anche soggetta alla possibilità di tsunami. Comunque la cosa così relativamente rassicurante è che lui è qua e ha detto che al momento non se la sente di fare previsioni sulle possibili conseguenze anche di ulteriori criticità che dovessero manifestarsi all'impianto di Fukushima Daiichi. Inoltre un'altra cosa relativamente così rassicurante è che Masako Sawai, che è una portavoce del Centro per l'informazione nucleare dei cittadini, un'organizzazione ombrella antinuclearista giapponese, anche lei ha detto che in questo momento, secondo loro, appunto, il livello di radiazioni a Tokyo non giustifica così la necessità così di evacuare, di andare via. Grazie a Stefano Carrer in diretta da Tokyo per gli ultimi aggiornamenti. C'è un altro fronte che preoccupa e non poco ed è quello delle borse. Stamattina Tokyo ha chiuso malissimo, meno 10%, peggio di ieri, e c'è un effetto domino. In diretta a Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Effettivamente oggi l'Europa è molto più scossa di ieri rispetto alla tragedia giapponese. Vi do intanto l'ultima notizia che riguarda il versante petrolio, perché i futures stanno registrando un ribasso molto accentuato sul mercato americano. Il futures, appunto, sul WTI, il greggio di riferimento statunitense con consegne ad aprile, sta scambiando a $97, in calo del 4% rispetto alla chiusura di ieri. È in netto ribasso anche il prezzo dell'oro, che è sceso, pensate, di $24 l'oncia, a quota 1401. Borse europee pesantissime. Oggi Francoforte è arrivata a perdere il 5%, ma adesso è a meno 4,33, quindi è migliorata, ma di poco. Parigi meno 3,70. Londra meno 2,40, Milano meno 3 punti. Gli investitori non fanno alcuna selezione, oggi stanno vendendo davvero di tutto, anche se non è detto poi che le società siano esposte con l'economia giapponese. Ci sono anche, appunto, dei casi singoli come quello di Fondiaria, che ha a che fare con una vicenda del tutto domestica, e comunque gli investitori ne approfittano per vendere tutto stamattina, anche perché, come abbiamo già ricordato prima, il mercato sta crescendo da almeno 2 anni, quindi anche quello del Giappone è un nuovo pretesto per incassare i guadagni, appunto, realizzati negli ultimi 2 anni. C'è da ricordare quello che è successo stamattina in Giappone. Oltre a tutte le piazze asiatiche che hanno perso largamente terreno, il Ministero dell'Economia ha fatto sapere, oltre ad aver iniettato nuova liquidità, di essere pronto anche al più presto di fare acquisti sul mercato azionario, un'iniziativa inedita da parte di un governo, non era mai stata presa neanche in concomitanza con la tragedia dell'11 settembre. Oggi si riunisce anche la Banca Centrale Americana, vedremo se verranno date delle indicazioni anche sulle conseguenze di questa tragedia giapponese sull'economia globale. Direi che per ora è tutto. Grazie Deborah. Valeria, torniamo alle testimonianze. Sì, perché stiamo cercando in questi giorni di raccontarvi quello che succede in Giappone anche proprio attraverso la voce magari di connazionali che hanno fatto la scelta tempo fa di andare a vivere proprio magari a Tokyo nello specifico. Questa mattina siamo riusciti a raggiungere telefonicamente Massimiliano Zucca, che è professore associato a Tokyo, il quale ci racconta qual è la situazione nella capitale e anche del rischio blackout, perché ovviamente a questo punto si profila anche proprio una necessità di razionare l'energia. A Tokyo città non c'è granché emergenza. I problemi sono legati al nucleare, sono diversi, tutti, se vogliamo, indiretti. Tokyo è a 220-240 km dalla centrale, quindi siamo abbondantemente fuori da ogni problema diretto. I problemi sono indiretti, nel senso che una centrale nucleare fuori uso vuol dire elettricità in meno. Ci arrivano notizie anche a noi secondo le quali la società che gestisce la TEPCO ha annunciato altri blackout anche per la città di Tokyo. Sì, ora i blackout sono annunciati per la città di Tokyo, sul sito web ci sono le informazioni sulle prefetture di Tokyo, le prefetture intorno a Tokyo sono divise un po' a macchia di leopardo in 5 gruppi diversi, ciascun gruppo fa un blackout di circa 3 ore. Però per esempio ieri di 5 gruppi solamente uno a fine serata ha fatto questo blackout, quindi si cerca ovviamente nei limiti del possibile di non farlo. Un problema comunque è che anche se non c'è il blackout, tutti quanti siamo invogliati, spinti o in qualche modo comunque dobbiamo ridurre i consumi elettrici, per cui tutte le attività viaggiano a ritmo ridotto. Le 13:18, esplosioni e incendi nella centrale di Fukushima, paura in Giappone, il governo però rassicura. Borsa di Tokyo a picco, effetto domino in Europa. Yara forse è morta di freddo. Calcio Champions, l'Inter stasera si gioca tutto a Monaco. Ancora una buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. La prima parte del nostro GR è stata interamente dedicata al Giappone, Giappone dal quale arrivano degli aggiornamenti sulle elezioni amministrative che erano previste proprio tra breve nel paese. Verranno ovviamente rimandate per il sisma, una decisione definitiva sarà presa domani, si dovrebbero tenere entro 2-6 mesi a seconda della situazione nelle diverse prefetture. Le altre notizie: il Consiglio Ecofin ha raggiunto un accordo politico su tutto il pacchetto che rafforza la governance economica dell'Unione Europea e su cui dovrà esprimersi anche il Parlamento Europeo. Il pacchetto, che comprende 6 misure legislative, tra cui il rafforzamento del patto di stabilità e la nuova procedura di debito eccessivo, dovrebbe essere approvato definitivamente entro l'inizio dell'estate. E adesso noi ci spostiamo nel Lazio, a Valmontone, dove si sta parlando di economia all'Assemblea Generale dell'Associazione Laziale degli Industriali. C'è per noi Alessandra Schepisi. Buongiorno da Valmontone. Dalla crescita economica alle energie rinnovabili, al federalismo, alle riforme, questi temi al centro della prima assemblea degli industriali di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo. Gli imprenditori italiani non hanno perso voglia di fare impresa, ha detto la presidente di Confindustria Marcegaglia, che ha preso la parola proprio in questo istante. Nonostante la crisi devastante che ha colpito l'Italia e l'Europa, abbiamo mantenuto le quote di mercato, c'è ancora voglia di fare impresa, certamente dobbiamo innovarci, dobbiamo migliorarci, soprattutto per quanto riguarda l'innovazione, ma gli imprenditori italiani ci sono. Poco fa duro intervento del presidente di un'industria, Aurelio Regina, che ha lanciato una stoccata alla politica, alle prese, ha detto, con una conflittualità diventata una regola, responsabile della bassa crescita economica del nostro paese, di cui l'appello di Regina, uno scatto di realismo, di orgoglio nazionale, l'invito a fare le riforme, la riforma fiscale, quella del mercato del lavoro, critico anche sul congelamento dei fondi alla cultura, critico sul federalismo fiscale, una riforma che secondo Regina produce incertezza e porterà un aumento delle imposte. Il luogo dove si sta svolgendo questa assemblea è un luogo particolare, popolato da maghi e folletti, Rainbow Magic Land, il primo parco a tema di Roma dedicato alla magia e alla fantasia, che aprirà il 26 maggio prossimo. Come abbiamo detto, la presidente di Confindustria Marcegaglia ha appena preso la parola, e dunque gli aggiornamenti sul suo intervento nelle prossime edizioni. Da Valmontone è tutto. Grazie Alessandra. E mentre è in corso a Roma un incontro tra Scajola e Berlusconi per superare le tensioni, arrivano le proteste del ministro Giovanardi. A fronte della decurtazione del fondo per la famiglia di più del 90% in 3 anni, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha detto che la sua delega è a rischio. Torniamo all'estero, proseguono senza sosta anche stamani raid aerei, almeno 4 contro la città libica di Aydaya, ultimo avamposto dei ribelli in Cirenaica prima di Bengasi, roccaforte degli insorti. A Bengasi c'è l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto, buongiorno. È una guerra di logoramento, le forze di Gheddafi sono più forti, qui a Bengasi ci si prepara anche alla peggiore delle ipotesi d'assedio, però richiederà del tempo e non è detto che vi siano dei rovesciamenti sul campo. È una lotta contro il tempo, perché ogni giorno che passa Gheddafi può mettere a segno un punto, tant'è che le forze dell'opposizione al governo nazionale, il Comitato Nazionale, qui il governo de facto della Cirenaica, ha preferito solo rinforzare le difese a Jdabia, l'altra grande città della Cirenaica, 140.000 abitanti, 50 km a oriente di Brega, aspettando questa famosa no-fly zone. Naturalmente loro continuano a premere affinché venga decisa subito, perché una volta imposta la no-fly zone, che richiederebbe comunque un bombardamento delle postazioni di artiglieria di Gheddafi, sarebbe un punto molto a vantaggio delle forze dell'opposizione, potrebbero addirittura avanzare, per cui qui si continua a chiedere. Però, ripeto, se la comunità internazionale continuerà a prendere tempo, a valutare il rischio che Gheddafi compia degli altri progressi verso Bengasi o addirittura verso il confine per far cercare la città. A Lampedusa continuano intanto gli sbarchi di migranti, il centro di accoglienza sull'isola è al collasso, lo ha confermato il sindaco De Rubeis. Al momento ci sono 2.870 immigrati, quando ne potrebbe accogliere massimo 1.200. La cronaca con gli ultimi aggiornamenti sul caso Yara. Il mistero intorno all'assassinio di Yara Gambirasio rimane tale anche dopo la conferenza stampa questa mattina a Bergamo del procuratore capo Massimo Meroni. Dall'autopsia è uscito quello che non avremmo mai voluto sentire, cioè che la giovane di 13 anni ha sofferto prima di morire. L'ipotesi più accreditata infatti è che nessuno dei colpi ricevuti sia stato mortale e che Yara sia morta di stenti o di freddo una volta abbandonata, ferita, nel campo di Chignolo, dove è stata ritrovata. Il procuratore ha escluso che le indagini si stiano stringendo intorno a un novero di persone. Nessuna risposta infatti è arrivata dai DNA ritrovati. Non appartengono a Yara, né ai suoi familiari e neanche ai campioni genetici delle persone della zona con precedenti per reati sessuali in mano alle forze dell'ordine. I due campioni, uno maschile e l'altro femminile, sono stati trovati entrambi su un guanto della ragazza e non, come trapelato in precedenza, sulla batteria del telefonino. Tra i tanti dubbi una certezza: Yara è stata ferita il giorno della scomparsa e appunto c'è alta probabilità che sia morta nel luogo dove è stata trovata. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Confermato dalla Cassazione il radicamento dell''ndrangheta in Lombardia, in particolare nel territorio di Milano e delle province limitrofe. Ieri 35 arresti a Milano. Alessandro Milan ha intervistato questa mattina il procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone. La presenza dell''ndrangheta nel nord Italia, soprattutto Piemonte e Lombardia, risale a molti anni fa. Io credo che il 2010, con una serie di indagini, come dire, a catena in qualche modo, soprattutto, non solo, ma soprattutto fra le DDA di Reggio Calabria e di Milano, culminate nell'operazione, quella il crimine, denominato il crimine del luglio scorso, cui sia noi che i colleghi milanesi ogni volta ci rifacciamo, perché ha rappresentato lo stato dell'arte e ha documentato con la evidenza dei filmati, delle registrazioni, al di là di ogni ragionevole dubbio, per usare un linguaggio dei film americani, la presenza di organizzazioni mafiose in Lombardia, il loro strutturarsi, sì, il loro riunirsi persino nella famosa sala Falcone e Borsellino di Paderno Dugnano, il loro mantenere i riti ormai consolidati in decenni, e insieme la loro capacità di penetrare settori della politica locale, dell'amministrazione, dell'economia, mantenendo sempre, questo mi pare fondamentale, il contatto con la provincia di Reggio Calabria, che continua a rappresentare in qualche modo il cuore, la testa dell'organizzazione. Questo direi che è la svolta che consente a tutti, richiamando innanzitutto l'attenzione degli organi di informazione, di capire le dimensioni del problema. Rimosso il giudice che non voleva il crocifisso in aula, è giusto, vi abbiamo chiesto questa mattina in bianco nero, è giusto per il 54% dei nostri ascoltatori, contrari il 46%. Minacce ai giocatori per lasciare la squadra, arrestato il presidente della Sanremese Calcio. La notizia a Sanremo era nell'aria da tempo, le manette sono scattate questa mattina. A finire in carcere il presidente della Sanremese Marco Del Gratta, suo padre Riccardo ed altre 6 persone. Sono accusati di minacce ed estorsione nei confronti dei giocatori della squadra messa recentemente in vendita per costringerli a lasciare il club prima della scadenza naturale del contratto, così da evitare le cospicue penali previste. Le indagini erano scattate lo scorso dicembre dopo l'omicidio del titolare di un negozio di ortofrutta a Sanremo. Omicidio per il quale è stato arrestato un pregiudicato che avrebbe confessato di aver sparato per errore all'amico mentre litigavano su chi dovesse tenere la pistola utilizzata proprio per minacciare i giocatori della Sanremese. Ad ingaggiare i due, secondo l'accusa, il presidente Del Gratta. Fatti gravissimi di cui non eravamo a conoscenza, dice Mario Macalli, presidente della Lega Pro, dove milita la Sanremese. Se noi avessimo avuto dei sospetti su fatti penali, saremmo andati a denunciarli a chi di dovere. Su fatti sportivi avremmo mandato la Procura federale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi c'è il calcio giocato, l'Inter impegnata questa sera in Champions League. La testa e il cuore stasera in campo a Monaco di Baviera. Lo sguardo già rivolto al 3 aprile, a quel derby scudetto in cui il grande ex Zlatan Ibrahimovic non ci sarà perché squalificato. Tra sogno Champions e volata tricolore, l'Inter di Leonardo è pronta a scrivere il proprio destino. Stasera all'Allianz Arena bisogna rovesciare lo 0-1 di San Siro. Servono 2 gol almeno, ma anche una difesa ermetica, altrimenti l'impresa diventerà impossibile. E allora Leonardo punta al recupero di Lucio e potrebbe portare in panchina Milito al rientro rientro dai guai muscolari per sventolare lo spauracchio dell'eroe di Madrid davanti ai panzer bavaresi. Al presidente Moratti bastano poche parole per far capire ai suoi che stasera si aspetta un Inter modello triplete. Mi sembra che capiscono l'importanza della cosa, sono tutti maturi e tutti con l'esperienza necessaria personale per sapere di cosa si tratta. Tra i rossi, Van Gaal ha già annunciato l'addio a fine stagione, ma occhio a Robben e Ribéry. Fantasia al potere. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di salutarvi, un aggiornamento che riguarda il dibattito in corso sul nucleare, alla luce ovviamente di quello che sta accadendo in Giappone. L'amministratore delegato di Enel, Fulvio Conti, da Londra ha detto: sarebbe un enorme danno, una rinuncia, ma ci adegueremmo. Torneremo ovviamente a parlare di Giappone nel GR delle 14. Intanto è tutto per questa edizione. Grazie regia Pietro Lacorte, ora c'è Italia in controluce. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.